It's about 7 o'clock now. Sono circa le 7, le 19. It's the end of Sarah and Lorenzo's working day. Finalmente! And it's time to go back to Florence. Sì, ma prima le parole nuove. Le ripeta la seconda volta. È ora di... It's time to... È ora di... Usciamo. Let's go out. Leave. Usciamo. Stanco morto. Dead tired. Stanco morto. Quante? How many? Feminine, plural. Quante? Sigarette. Cigarettes. Sigarette. Il nuovo vocabolario ancora una volta. Usciamo. Sigarette. È ora di... Quante? Stanco morto. E adesso ascolti il prossimo dialogo. Andando alla macchina. Beh, è ora di tornare a Firenze. Oh, yeah, it's been a long day. I've never met so many new people in one single day. Usciamo. I'm shattered. Oh, anch'io sono stanco morto. Morto? Yes, like dead. Yeah, me too. That Mr. Vanini, he talked for hours. Sì, per ore. E quante sigarette? Oh, yes, my God. 30.